piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Ogni tanto in giro mi capita di vedere dei vecchi e questa cosa non mi convince per niente. Andiamo a chiedere informazioni. A me mi fanno schifo i vecchi. Ah, io non li sopporto, sono troppo lenti. Io li stirerei tutti, fega. Lei è favorevole ai vecchi? Veramente no, ingrigiscono la città. Ragazzi, al giorno d'oggi la vecchiaia è out. Voglio dire, sono flaccidi, vestono malissimo e tra l'altro non gli funziona neanche più il cosino. Visto? Il parere è comune. Ma perché esistono questi vecchi? E soprattutto, che vogliono da noi? Nonna, che cosa vuoi da me? Vanni a prendere la medicina, che non sto tanto bene. Vogliono farci fare delle cose per loro. Il vecchio è una tipologia umana che ha come obiettivo il farsi aiutare. È un pigro, un suddolo. Tra l'altro ama stare in pantofole ed è ingordo di medicine. Questo è naturalmente un brano comico preso da canale YouTube di Maccio Capatonda sulle inchieste di Gerry Polemica. Però alla domanda cosa pensate dei vecchi pare che una delle risposte più frequenti non sia molto distante da quelle che abbiamo sentito nello sketch comico. Devo dire che l'atteggiamento della gioventù nei confronti dell'età più avanzata è sempre stato un atteggiamento reattivo, di contrapposizione, ma è chiaro. Il segnale dell'emancipazione di un essere umano è l'omicidio rituale delle persone che l'hanno preceduto, hanno occupato posto nella società. Mi ricorda questo clima nei confronti delle situazioni persone attempate, un racconto di Dino Buzzati che è metà degli anni 60, che parla proprio di cacciatori di vecchi, prevede a metà degli anni 60, guardate, una società distopica in cui la notte uscivano giovani scalmanati al grido di dagli al vecchio, e il loro motto era l'età è già un reato. Un racconto terrificante in cui un padre di 40 anni, che poi l'età in cui si era considerati vecchi in questo racconto è 40 anni in su, incontra il figlio di notte che lo picchia, lo malmena, che faceva parte di queste squadracce di linciaggio. Me lo ricordo questo racconto perché faceva parte di un libro che mi regalarono i miei nonni proprio per il mio 12° compleanno. Mi regalarono questa raccolta di Buzzati e misero un segnalibro proprio dove c'era il racconto Cacciatori di vecchi. Allora ero bambino, non lo capii, perché naturalmente che me ne importava, ma volevo lanciarmi un messaggio, cioè attenzione al rapporto che avrai quando avrai un'età più matura. Oggi che sono nella condizione di essere selvaggina di quei possibili cacciatori di vecchi, comincio a riflettere soprattutto alla luce di un rapporto che ho visto ieri, di cui parleremo oggi, un rapporto fatto dal Censis in collaborazione con l'osservatorio Censis Tender Capital, la Silver Economy e le sue conseguenze, la società post-Covid-19. Ne parleremo nel dettaglio, però devo dire che i titoli, come è stato lanciato dai giornali, sono abbastanza in linea con tutte le previsioni di un futuro da incubo o gli scherzi di Maccio Capatonda. La sintesi di tanti titoli era: la metà dei giovani, dei millennial, cioè di quelli che hanno un'età fra i, diciamo, 20 e 40 anni, in cui, che sono, diciamo, la fetta più giovane, interrogata, dice che proprio forti dell'esperienza del Covid, del lockdown, pensano che in realtà le cure e anche la spesa pubblica per gli impegni sociali vada dirottata piuttosto che sugli anziani, che costano in pensioni, costano in cure, in medicine e via dicendo, sulla popolazione più giovane. Insomma, vorrebbe penalizzare gli anziani dall'accesso delle risorse pubbliche. Lo vediamo adesso nel dettaglio, però vorrei sapere come la pensate in questa direzione. Chiamate l'800240024, siate voi anziani come me, che volentieri lascerei in caso di estrema necessità il mio posto a persone più giovani, lo dico senza nessuna ipocrisia. È giusto che sia così, però in generale questo tipo di atteggiamento mi fa riflettere perché il passaggio successivo di una società basata sull'eugenetica è cominciare a tagliare le risorse generali per le categorie più fragili. Oggi tocca ai vecchi, domani potrebbe toccare alle persone non perfettamente in linea con tutte le manualità e le potenzialità sensoriali che hanno la maggior parte delle persone. 800240024, Moreno Zani, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, è presidente di Tender Capital, che in collaborazione con il Censis, l'osservatorio Censis Tender Capital, ha proprio appena pubblicato questo rapporto intitolato La Silver Economy e le sue conseguenze nella società post-Covid-19. Ora, era prevedibile che nelle persone attempate destasse qualche scalpore, però riportiamolo in termini di numeri e diciamo di realtà, quello che voi avete osservato. Allora, diciamo che allora era creava scalpore, ma alla fine non ci siamo sconvolti più di tanto, perché da un certo punto di vista era quasi atteso. Era scontato, esatto, era scontato un cambio, perché l'abbiamo vissuto tutti, lockdown, la paura comunque di perdere il lavoro, di avere minor reddito, le cure sanitarie, hanno, diciamo, forse da un certo punto di vista accresciuto un sentimento che probabilmente era già latente, che è uscito, che un po' è sempre stato latente, diciamo, nel conflitto generazionale. Uno tende sempre a pensare, siamo stati tutti giovani, è ora che ci lasciano spazio questi anziani, che in questo momento poi sono anche particolarmente privilegiati rispetto ai giovani, hanno condizioni economiche stabilizzate, hanno una gioventù fisica molto prolungata. Oggi un sessantenne non è più un avanzo da centro anziani, è una persona che produce, vive. Sì, un sessantenne non è un anziano, adesso si parla di longevi, oltre i 65 anni, gli anziani li consideriamo quelli che superano i 75 anni ed oltre, no? E proprio perché hanno questa condizione di più o meno agiatezza economica, di aver vissuto comunque degli anni probabilmente migliori di quelli che vivono oggi i giovani, che invece si trovano a fronteggiare precariato, insicurezza, livello di salari anche più bassi in relazione all'attuale costo della vita rispetto a coloro che li hanno preceduti, probabilmente queste condizioni un po', diciamo, acuite nel momento della difficoltà del lockdown e dell'epidemia, ha creato una crepa in questo rapporto generazionale tra giovani e anziani. Beh, io avrei capito, Moreno Zani, si parlava nei primi giorni dell'emergenza, del lockdown, quando c'erano un numero limitato di respiratori, si diceva, si fanno delle scelte di fronte a delle persone molto anziane, preferiamo usarlo su persone giovani. Questo è un protocollo tradizionalmente sempre usato in medicina e questo può andare. Già, però allora questo creava un certo disagio, indubbiamente. Andando ancora avanti, quando è cominciato a emergere il filone negazionista rispetto alla pandemia, si dice: ma no, sai, cosa vuoi che sia, sarà un'influenza che si porta via un po' di vecchi, come accade ogni anno. E ancora una volta, diciamo, riemergeva questo dato. Ma oggi, diciamo, è molto più specifico, lo vedo dai dati, dai numeri del vostro osservatorio. Non è soltanto pensare all'emergenza, a chi diamo il respiratore. Oggi è proprio nell'uso che si fa della spesa pubblica. Voi parlate di un fatto che dovrebbe un pochino far riflettere. Allora, ma qui secondo me, come diceva lei, è partito dall'emergenza sanitaria, ma poi probabilmente è l'emergenza economica che ha fatto un po' da detonatore, perché in quel momento si sono gli animi, diciamo, si sono accesi, soprattutto dei millennials verso gli anziani, perché la loro condizione, già abbastanza difficile pre-Covid, hanno iniziato a vederla ancora più buia post, per tutto quello che abbiamo visto, abbiamo letto sui giornali, le previsioni economiche, di conseguenza i posti di lavoro persi o che si perderanno, cassa integrazione, tutto quello che abbiamo vissuto. Probabilmente questo sentimento, questo sentimento di insicurezza ha dato, diciamo, il là a questo sentimento che, come dicevamo prima, era già latente, dicendo ora basta, loro sono privilegiati, loro hanno a disposizione risorse che avevano già dal passato, ora tocca a noi, abbiamo una precedenza. Cosa che a mio parere, dal mio punto di vista, queste forme di rottura sono sempre pericolose all'interno di una struttura sociale. Ma perché, chiaro, perché poi la soluzione prima, non è mai così lineare. Leviamo le pensioni vecchie, diamo le giovani. Non è che risolve il problema. No. Non è che tiro acqua al mio mulino. Però non è esattamente così che funziona. Esatto, ma poi in moltissimi casi gli anziani sono la fonte principale di sostegno dei giovani. Perché se non ci fossero loro avremmo problemi maggiori anche, pensiamo solo ai nonni babysitter, per esempio, o al sostegno nel mese, cioè per le coppie più giovani che comunque hanno difficoltà a far quadrare i conti, piuttosto che nell'acquisto o nel sostegno all'affitto della casa. Dunque, diciamo che la fotografia ci dice che c'è un problema. Gli animi si sono riscaldati, è meglio intervenire prima che la situazione magari degeneri. E poi oggi, come diceva lei prima, riguarda gli anziani, domani riguarda le persone che portano un handicap, domani riguarda qualcun altro. È un attimo, non dimentichiamo quello che è accaduto in periodi bui del passato. Si poneva l'idea, dice, una persona con dei limiti fisici, con un handicap, costa quanto il mantenimento in una famiglia di operai, e chi sceglie secondo te che ha diritto a sopravvivere? Il passaggio è immediato. Sentiamo qualche ascoltatore assieme e poi commentiamo. Paolo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a voi, mi avete anticipato nel ragionamento. Io credo semplicemente sia da scellerati pensare che la persona anziana sia un qualcosa che assorbe le risorse del resto della socialità. Non è vero, diciamo, perché comunque è immediato e semplice arrivare a questa conclusione. Maccio Capatonda, sì, da questo punto di vista ci dà un esemplare. Sì, no, quello è vero, quello è vero. Fermi la gente per strada, chi scegli, salvare un vecchio o un giovane? Cosa pensano, certo, i vecchi sfaccendati, certo, Noiosi, rompiscatole? Diamo i soldi ai giovani, ecco. Però la scuola ai giovani che non pagano per andare a scuola, nella scuola dell'obbligo, chi è che gliela sta pagando? Forse gliela sta pagando qualcuno che ha lavorato prima di loro, che sta lavorando mentre loro vanno a scuola e che sta diventando anziano o che è già diventato anziano. Secondo me basta veramente poco a uscire da questa superficialità. Poi dopo tante volte fa comodo rimanere nella superficialità, nell'ignoranza sicuramente, ma è un circolo che si chiude. Paolo, posso fare una domanda a Paolo, che io considero il pubblico come un interlocutore privilegiato? Poi lo chiederò anche al nostro ospite, a Moreno Zani, che ha gestito questa ricerca. Secondo lei, questa mattina leggiamo questi dati e possiamo avere un atteggiamento sconvolto, ci strappiamo i capelli, in che mondo siamo questi giovani, che poi è sempre quello che tradizionalmente si è sempre detto nel conflitto generazionale. Ma qua emerge un dato che non è la solita invidia sociale, è proprio un'invidia generazionale che è antitetica, è paradossale. Di solito i vecchi invidiano i giovani perché sono più giovani, hanno più vita davanti, sono più gagliardi, sono più belli. L'invidia dei giovani verso i vecchi è un fenomeno nuovo. Come rimediamo? Un'operazione culturale, degli strumenti concreti? Secondo lei, se dovessi porre lei il problema? Ma non so, forse è proprio all'interno della famiglia che occorre lavorare su questo. Cioè, io sono cresciuto... Che però è un dato astratto, anche la famiglia in sé ormai è un'entità. Purtroppo io mi baso su quello perché sono cresciuto all'interno di una famiglia che mi ha educato. Quanti comunque anni al rispetto hai, Paolo? Della... Quanti io ho 42 anni. Ho 42 anni, appena era uscito... piccolo... È appena uscito dalla categoria dei millennial, praticamente, sì, proprio sì, anagraficamente, quindi è una zona liminare, è ancora giovanissimo naturalmente, però lei già si sente più portato verso il mondo delle responsabilità. Sì, quello sì, beh, con 42 anni sono già uscito proprio da un pezzo della categoria dei millennial, però io sono stato cresciuto dai miei nonni. Non è così frequente, non è così frequente. Molti suoi coetanei ancora se ne vivono tranquillamente a casa. No, io sono nato che già mi sentivo vecchio, forse è quello. Però sono stato cresciuto dai miei nonni, perché i miei genitori chiaramente andavano a lavorare, e quindi per me la persona anziana è l'oracolo. Non si può fare a meno della persona anziana. Una visione proprio, diciamo, epica e tradizionale del rispetto all'anziano. Qui però vogliamo oggi essere molto laici, vogliamo fermarci proprio all'aspetto concreto, alla soluzione, perché se va avanti questo tipo di tendenza è logico. Ma certo, i giovani certo. Sempre più disimpegnati, perché dicono tanto che lo facciamo a fare, ci sono i vecchi che si mangiano tutto. Ci fermiamo un istante, riprendiamo tra poco. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Melog. Ma da dove provengono questi vecchi? Da un pianeta decrepito? Da un tempo passato male? Da Matusalemme? No, provengono da altri vecchi. Purtroppo questi individui sono anche in grado di riprodursi. Ma il corpo anziano non è fatto per l'amore, è fatto per marcire, o al massimo per l'affetto. Dai un bacetto a nonna. No, no. Ma come faremo a liberarci da questi vecchi? Mentre cercavo qualcosa che potesse fermare questa invasione, è successa una cosa incredibile. Questi individui ad un tratto si autoeliminano. Quindi ragazzi, non abbiate paura, la soluzione c'è. Basta solo essere pazienti e aspettare che la morte faccia il suo corso. Ci vediamo alla prossima polemica, da Jerry Polemica. .800240024, ringrazio da Milano Peter Bescapè che mi manda in onda, Ilaria Vanossi per l'assistenza, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Stiamo parlando con Moreno Zani, che è presidente di Tender Capital. Il gruppo, che l'osservatorio Censis Tender Capital, che ha appena pubblicato un rapporto intitolato La Silver Economy e le sue conseguenze nella società post-Covid-19, che riporta in termini numerici e in maniera naturalmente meno cruenta quello che è lo scherzo di Jerry Polemica, Maccio Capatonda. Però mi viene a pensare una cosa, dottor Moreno Zani. In questo momento io capirei una sorta di invidia generazionale se ancora ci trovassimo in una situazione dal punto di vista politico istituzionale in cui i governanti sono persone attempate, l'abbiamo vissuto nei periodi della Prima Repubblica, anche la Seconda Repubblica era notevolmente rappresentativa in questo senso. Oggi se guardiamo le forze d'opposizione, Salvini e la Meloni sono due ragazzi tutto sommato, il presidente Conte è giovane, è indubbiamente una persona giovane, avrà un po' i capelli tinti ma comunque non fa parte certo degli anziani, tutti i ministri che in questo momento sono più presenti sono tutte persone comunque che vanno sul filo dei 40 anni, forse anche meno, non c'è nemmeno questo elemento peggiorativo che i vecchi ci stanno comandando. Come in un certo senso lei cerca di giustificare questo atteggiamento ancora così fortemente ostile e maccio capatondesco nei confronti degli anziani? Anziani, cioè quelli che noi definiamo anziani, cioè gli over 65 poi a salire, sono tanti e votano. E di conseguenza, diciamo che da un punto di vista politico, presumo io, occorra fare anche i conti con questa parte della popolazione che poi comunque ha un peso quando ci sono le elezioni. La sua è una riflessione corretta, però in effetti probabilmente vista l'età delle persone che oggi governano il paese, forse dovrebbe esserci un'attenzione un po' più non tanto al giovane, l'adulto, l'anziano, ma a quei segnali che arrivano dalla società, come quelli che noi abbiamo diciamo fatto emergere dal rapporto, per eventualmente modificare la propria azione. È la stessa cosa di cui abbiamo discusso ieri nella presentazione col vice ministro Baretta e col presidente Bagnai, cioè se c'è questa forma di insofferenza forse è utile farsi delle domande a livello politico e vedere come si può intervenire per riequilibrare la situazione. In relazione da dire, quando i giovani arrivano in prima fila e hanno in mano loro il bastone del comando, si comportano esattamente come si sono sempre comportati uguale. Tutte le generazioni uguale. Precedenti. Non è che uguale. Fanno i giovani, fanno, no. Assumono un ruolo e il ruolo è senza età, è pieno di responsabilità, no, ma, e si fa quello che si pensa meglio fare. Anche in relazione a quello che diceva l'ascoltatore prima che ha chiamato, io condivido quello che dice, il rapporto generazionale tra gli anziani e i vecchi è fondamentale per il normale ciclo di vita della società, però noi dobbiamo pensare a quei ragazzi che oggi hanno 20 anni, 22 anni, 25 anni, che pur laureati lavorano nel call center e percepiscono 800 euro al mese e che per loro la visione del futuro è abbastanza difficile, per non dire nera, ma è difficile. In un momento di difficoltà come quello che abbiamo vissuto, e come in tutte le situazioni di questo tipo, tutti noi, l'essere umano, tende a dare la responsabilità a qualcuno di quello che sta accadendo. E è niente di più facile di rivolgerla verso quelli che quella fascia di popolazione vede come dei privilegiati, perché hanno disponibilità. Ma guarda che tutte le pesti del passato, si sa che fosse colpa degli ebrei, ad esempio, nel Medioevo, perché si prendeva una classe di persone invidiata, socialmente anche economicamente privilegiata, quindi c'è colpa loro, gli untori sono loro, e via nel tempo c'è sempre stato un colpevole. E di questa lì la pericolosità. Perché se poi noi lasciamo che questo sentimento progredisca, aumenti e si sedimenti, diventerà veramente pericoloso, perché come dicevamo prima, oggi è il turno degli anziani, domani di chi? Dunque certo, bisogna intervenire in quella situazione. Anche quello che ha detto il procuratore generale della Corte dei Conti ieri va nella stessa direzione, dovete intervenire sulla tassazione del lavoro, dunque parliamo delle fasce più deboli. E diceva il procuratore generale, anche dei pensionati, visto che comunque fanno la funzione di ammortizzatore sociale verso i propri figli e nipoti. Se noi rompiamo questo meccanismo, diventa un problema. C'è anche un problema, secondo me, uscendo dai numeri, dalla vostra analisi, che devo dire è perfetta, riguarda l'aspetto proprio economico, anche un problema di prestigio sociale. Lei si metta nei panni di un 25enne, che in realtà, come dice giustamente, nella migliore dei casi lavora un call center, quindi non ha soldi in tasca, se deve uscire con una sua coetanea ha difficoltà a offrirle una pizza, e si rende conto che in realtà la sua coetanea esce più facilmente col cinquantenne, perché può portarla a cena, è brutto dirlo, ma esiste anche questo, può dargli dei beni di sussistenza molto più elevati, giustamente dicevo, perché uscire con uno che nemmeno mi riesce a portare a mangiare una pizza, esco con una persona che comunque mi dà anche un futuro, che un domani può offrirmi una casa, con lui posso fare una famiglia. E è cambiato molto anche questo divario generazionale. Oggi è sempre più facile vedere persone con potere di acquisto, anziane, che hanno facile accesso anche agli aspetti più ludici della società, più che giovani. Un vecchio può andare a uscire in un locale, un cinquantenne, andare a cena fuori, farsi una bella vacanza, avere una bella macchina, avere una bella motocicletta, tutte cose che il giovane si sogna e sa che non potrà avere se non, chissà, in momenti remoti. Conta anche questo aspetto di gratifica sociale, oltre che di invidia sociale per i beni di consumo. Conta secondo me, perché comunque soddisfa prima di tutto il desiderio che può avere in questo caso il genere opposto alla tranquillità, alla sicurezza. Dunque nel momento in cui io mi rivolgo ad una persona più grande di me, ma che comunque ha una stabilità economica, io in modo egoistico mi tolgo un problema. Certo. Quello dell'aspetto dei consumi, quello è tutto un altro grande tema, perché non dimentichiamoci che oggi la maggior parte dei consumi vengono da quella fascia di età, vengono dalla fascia che va dai 50, 60, 70. L'abbiamo visto anche nel precedente rapporto, quello che abbiamo presentato l'anno scorso, dove c'era lo spaccato dei consumi. Se gli anziani dovessero fermarsi nel consumo, avremmo problemi seri anche a livello economico, perché sappiamo tutti che il consumo è uno dei motori per spingere l'economia. Paradossalmente sì, questo inciderebbe anche in categorie merceologiche che apparentemente non dovrebbero riguardare gli anziani, ma oggi gli anziani si vestono, oggi gli anziani hanno automobili, oggi gli anziani hanno motociclette, oggi gli anziani si muovono e viaggiano, e questo perché possono farlo? E i giovani rimangono a guardare, e questo è un motivo che poi dobbiamo farcene carico anche noi della nostra generazione, per capire che un qualche problemino c'è se ci troviamo in questo momento così difficile. Io penso che la nostra generazione dei 60 ultra sessantenni avevano comunque, con tutti i conflitti che c'erano con i nostri genitori, erano anni potenti in cui c'era proprio un odio generazionale perché sembrava che il mondo dovesse cambiare, però c'era la speranza che anche noi ci avremmo potuto fare. Un briciolo di speranza che potevamo farcela, ce l'avevamo. Oggi sembra quasi che ci sia questa eternità nella vecchiaia che occuperà tutti gli spazi, Noi vedevamo i nostri genitori come persone deteriorabili. Io sapevo che mio padre alla mia età sarebbe messo a giocare a bocce, ne ero convintissimo, per questo accadeva e questo infatti è accaduto. Ma oggi mio figlio non ha proprio questa certezza che io da qui a qualche giorno mi levo fuori e lascio spazio a lui. Mi vede ancora vivo, gagliardo, attivo, e quindi dice: ma per quanto tempo durerà il papà e continuerà a tenere occupato il posto che è mio? È giusto, oggi non è più così, perché grazie comunque al miglioramento delle cure mediche, dell'assistenza, delle strutture, noi abbiamo visto l'allungamento della vita, diciamo, media della popolazione. E se prima a 65-70 comunque c'era anche già il passaggio anche della parte economica, anche di una larga fetta, di una parte consistente del proprio patrimonio verso i figli, oggi non succede. Perché comunque una persona a 65-70 anni ha davanti ancora, se rimane in salute, 15-20 anni. Non dimentichiamoci per esempio che gli over 65 sono i più grossi fruitori dell'entertainment. Dunque pensano al loro chiaramente benessere. Certo, esatto. Sì. Cioè, dunque, io gioco con gli stessi apparecchi con cui giocano i miei figli che hanno 25 anni. Esatto, cioè, esatto. Ci scambiamo i vestiti, ci scambiamo i beni di consumo, perché era inimmaginabile veramente questo anche soltanto 15-20 anni fa. Immagino il loro pensiero, ma quando il papà si leverà dalle scatole, ci lascia la casa, ci lascia la macchina, ci lascia tutti i suoi giocarelli con cui si diverte tanto? E vedo che è molto lontana questa data nelle previsioni, nelle attese. Io la ringrazio. Ah, sì, prego. No, sì, stavo dicendo, diciamo che dobbiamo pensare oggi che dobbiamo saltare una generazione. I nonni non lasciano i figli, ma i nipoti, se ne salta una. C'è questa speranza, sì, è che i figli non hanno fatto figli, questo è il problema, non si trovano più i nipoti. La ringrazio intanto Moreno Zani, gli ascoltatori sono in attesa, fra un istante avranno modo di dire la loro. A tra poco. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free. Dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni, aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Melog 800240024. Adesso la voce a chi ci ha ascoltato, l'ospite ha espresso quella che è la linea della ricerca su questa economia, la silver economy, in cui i giovani hanno una forte invidia per la generazione che li ha preceduti e dicono: date a noi le risorse, basta darle ai vecchi. Cosa ne pensa il pubblico? Giuseppe da Roma, buongiorno. Giuseppe. Roberto da Codogno. Sì, sono Roberto Altavilla, Roberto Altavilla, medico geriatra. L'ascolto. Sì, volevo solo aggiungere una piccola considerazione per quanto riguarda il modello sanitario che deve gestire le problematiche geriatriche. Il modello è che quello poi che hanno sviluppato da 40 anni fa i medici canadesi, è che nell'ambito geriatrico il modello deve tener conto della possibilità di fissare degli obiettivi veri e degli strumenti adeguati, delle procedure adeguate quando si tratta di gestire e di curare una persona anziana. Dai canadesi si erano accorti che il modello tradizionale, che va bene per me che sono, ho 53 anni, il modello tradizionale non può essere applicato in un anziano, grande anziano o un anziano fragile. Scusi, in termini concreti, dottore, riguardo alla ricerca, sì, è stata fatta, dovrebbe rassicurare i giovani che le risorse destinate agli anziani sono, diciamo, usate in maniera più razionale, secondo modelli, esatto, più avanzati. Ecco, esatto, sì. Perché le cose, cioè, è evidente a tutti che quello che si può fare a un paziente di 50 anni non è la stessa cosa che puoi fare a un paziente di 90, in termini di rischi. Quindi secondo lei sono usate male le risorse? Peserebbe meno questo. No, dobbiamo prendere atto che ormai in ambito geriatrico, questa cosa, questo strumento questo modello avanzato ormai è applicato. Ma per solo cui, per farmi capire, in una parola, in cosa consiste la differenza? In cosa si. Il modello farebbe risparmiare risorse, sarebbe più efficiente? Sì. È un modello più efficiente, più efficace. Per esempio, noi in ambito geriatrico utilizziamo la valutazione multidimensionale, che è una cosa inventata 40 anni or sono, dove praticamente su questo anziano si fissano obiettivi di cura veri, concreti, efficaci, che tengono conto non solo della malattia, ma della loro abilità, dell'autosufficienza nella vita quotidiana. Cosa che invece in un soggetto giovane adulto è un problema che non c'è, perché già quello è autonomo, è autosufficiente. Diciamo è un aspetto che integra la nostra riflessione, però è molto utile, è stimolante pensarlo, che ci potrebbero essere delle formule che, senza drasticamente dire togliamo da una parte per dare dall'altra, diciamo usiamo meglio le risorse secondo modelli, secondo protocolli molto più avanzati che permettono di dare efficienza. La ringrazio, dottore. Alfonso da Roma è tornato? Alfonso? Sì, sono qua. Allora, Alfonso, avanti. Sì, però spegni radio, tutto, sento un casino. Sì. Allora, io volevo dire questo. Per quanto possa sembrare brutto mettere su due piatti della bilancia denaro e vite umane, volevo fare questo piccolo ragionamento. Un'azienda inglese, della quale non ricordo purtroppo il nome, aveva fatto una proiezione con la quale che diceva che senza il lockdown in Italia il numero dei morti sarebbe stato circa il triplo, mantenendo pressoché inalterata la media di età, quindi 79 anni, che è stata la media dei deceduti in Italia. Cioè, quindi... Noi, per non avere questo numero di deceduti, abbiamo speso o spenderemo 10 punti di PIL, che costeranno alle generazioni future. Alfonso, non ho strumenti culturali per poterle rispondere. La invidio che lei ha una conoscenza così raffinata di queste proiezioni prese da uno studio inglese che aveva visto in internet. Non so che dirle, non ho davanti dati per poter discutere con lei su questo. C'entra anche abbastanza poco con quello che stiamo dicendo. Ida da Milano. Benedetto quell'uomo, comunque. Sinceramente non ho capito. Cioè, vabbè, lasciamo perdere. Lei ha capito? Non me lo spieghi, È semplice, se non l'avessero fatto ci sarebbero stati più morti. Invece con tutto quello che abbiamo fatto nel lockdown abbiamo ridotto, ma abbiamo speso 10 punti di PIL. Quindi, abbiamo mantenuto più vecchi in vita, che era inutile, questa era la sintesi. Ecco, è santo cielo. Ringrazio, Ida, veramente... Sono talmente ormai abituato agli ascoltatori che leggono una cosa in internet e diventano esperti, che non avendo io davanti, io sono abituato a rispondere sulle cose che so, che ho strumenti, che ho studiato. Questa cosa non la sapevo, dei 10 punti di PIL e dei vecchi in più, quindi l'ascoltatore ha il suo punto di vista. Lei cosa deve dire invece? Nulla di speciale, se non che io sono felicemente 75enne, vivo decorosamente con dei limiti che hanno tutti, che possono essere finanziari, fisici, eccetera. Quello che trovo di molto triste, che è successo e sta succedendo e da un bel po' succede, è che noi abbiamo ignorato, dimenticato quello che è in effetti il valore della famiglia e il rispetto per gli anziani. In altre culture che io conosco e che frequento, l'anziano viene considerato, dicono, old is gold, è oro. E la prima cosa che chiunque che fa, che entri in una casa dove c'è un anziano, la prima persona che è onorata, salutata, con la testina per terra, praticamente a onorargli e toccargli i piedi, sono i figli, i nipoti, i figli più grandi, ma questo salto culturale è stato fatto, è un po' difficile tornare indietro. Quindi prendo atto del suo rimpianto per una società diversa, ma bisogna proporre dei modelli adeguati a quello che siamo e non quello che non possiamo più essere. La ringrazio tutti, alla prossima.